soli desideri scoperti. Un tempo ti facevo conferenze, ora ti canto il mio amore. Il giorno si fa strada dentro la città, umida uguale come è stato raccontato. Già c'è il ponte di Brooklyn su Bologna, è gremito di gente che fuma. Senza palco che esistiamo, ma quante maschere senza corpo nella periferia si respirano chiedendo che cosa sto facendo, saltando su tiranti d'acciaio, sollevano il ponte solitario, la tecnologia è una poesia che conosci a memoria. A me stesso su colline verdi, chi non rimane secco pensando a quei sentieri, torturavo le farfalle con i gatti, invece ero un poco più gentile tra gli adulti e gli ulivi, la violenza era totale, ma le cose più importanti noi le riuscivamo a fare. Abbiamo giocato sulla scala del fienile, io e la mia amica Maria Chiara. Giovedì, i miei soli desideri scoperti.